645. Torta tedesca. Eccovi un'altra torta della stessa nazione, e buona anche questa, anzi eccellente. Raccontavano i nostri nonni che quando sullo scorcio del XVIII secolo i tedeschi invasero l'Italia, avevano nei loro costumi qualche cosa del bruto e facevano inorridire a vederli preparare, ad esempio, un brodo con le candele di sego che tuffavano in una pentola d'acqua a bollore, strizzandone i lucignoli. Ma quando nel 1849, sfortunatamente, ci ricascarono addosso, furono trovati assai rinciviliti e il sego non era visibile che nei grandi baffi delle milizie croate, col quale li inzafardavano, facendoli spuntare di qua e di là dalle gote, lunghi un dito e ritti interiti. Però, a quanto dicono i viaggiatori, una predilizione al sego predomina ancora nella loro cucina, la quale dagli italiani è trovata di pessimo gusto e nauseabonda per untumi di grasso d'ogni specie e per certe minestre sbrodolone che non sanno di nulla. Al contrario, tutti convengono che i dolci in Germania si sanno fare squisiti e voi stessi potrete, così alto alto, giudicare del vero da questo che vi descrivo e dagli altri del presente trattato che portano il battesimo di quella nazione. Zucchero grammi 250, farina grammi 125, mandorle dolci grammi 125, burro grammi 100, cremor di tartaro grammi 15, bicarbonato di soda grammi 5, rossi d'uovo numero 8, chiare numero 5, odor di vaniglia, le mandorle sbucciate, le asciugatele bene al sole o al fuoco e pestatele finissime in un mortaio con una delle dette chiare. Lavorate prima il burro da solo con un mestolo, rammorbidendolo un poco d'inverno a bagnomaria. Aggiungete i rossi ad uno, indi lo zucchero e lavorate queste cose insieme almeno mezz'ora. Unite al composto le mandorle e rimestate ancora, poi le quattro chiare montate e la farina fatta cadere da un vagliettino, mescolando adagio. Per ultimo versate le polveri che servono per rendere il dolce più soffice e più leggero e cuocetelo al forno in una teglia, non troppo piena, unta col burro d'accio e spolverizzata di zucchero a velo e di farina. Per risciogliere bene le mandorle nel composto non vi è altro mezzo che versare una porzione di questo sopra le medesime, macinandole col pestello. Ora che è fatta la cappa, bisogna pensare al cappuccio, che è una crosta tenera che le si distende al di sopra. Occorre per la medesima burro grammi 100, zucchero a velo grammi 100, caffè in polvere grammi 30. Fate bollire la detta polvere in pochissima acqua per ottenere 2 o 3 cucchiaiate soltanto di caffè chiaro, ma potentissimo. Lavorate il burro per circa mezz'ora, rammorbidito d'inverno a bagnomaria, girando il mestolo sempre per un verso. Aggiungete lo zucchero e lavoratelo ancora molto. Per ultimo il caffè a mezzi cucchiaini per volta, arrestandovi quando sentite che il gusto del caffè è ben pronunziato. Versate il composto sopra la torta quando sarà ghiaccia e distendetelo pari pari con un coltello da tavola, ma per averlo bene eguale ed unito passategli sopra a poca distanza una paletta infocata. A vostra norma, questa crosta di gusto delicatissimo deve avere il colore del caffè latte. Al caffè, volendo, si può sostituire la cioccolata infusa, come quella descritta nella torta precedente di pane bruno alla tedesca.